says the things you ought to hear. I'm young, I'm wild, I'm free. Got the magic power of the music in me. I'm young, I'm wild, I'm free. Got the magic power of the music in me. Triumph, Magic Power, L'Early Bird Special. Io sono Chuck Bird, questo è l'Early Bird Special, che è la trasmissione che tutte le mattine va in onda dalle 6 alle 7 dalle frequenze di Rock FM. Noi la chiamiamo la primissima colazione. Dopo di me, dalle 7 alle 9 ci sarà Ariele e Freak Anthony con pane, burro e rock and roll. Ma non corriamo, abbiamo ancora un sacco di buona musica da ascoltare e anche qualche chiacchiera da raccontare. Chicago, Beginnings. I'm with you. It doesn't matter where we are or what we're doing. I'm with you, that's all that matters. wish I could sing it to you. Oh no, I wish I could sing it to you. Chicago! Questo è Beginnings! Ragazzi, sapete che potete entrare in contatto con il vecchio Chuck Bird? Eh sì, è molto semplice. L'importante è avere una connessione a internet, una tastiera, un computer, insomma. Bird, chiocciola, Radio Rock FM, questo è il nostro indirizzo postale, a cui indirizzo postale elettronico a cui voi potete scrivere le vostre storie di rock and roll. La Dolce Cherie farà modo di stampare le vostre lettere e io sarò felicissimo di leggere le cose in diretta. Bruce Springsteen è qui all'Early Bird Special, dopodiché vi racconterò una storia sui Police. Vi va? Per il momento Rosalita. Bruce Springsteen, un vero lottatore del rock and roll, con i jeans stretti e gli stivali, le camicie da lavoro con le maniche arrotolate e il taglio di capelli da operaio. Anche lui ha un look che i suoi fans riconoscono e amano. E a proposito di look, a volte la sua scelta non è dettata da ragioni di cuore, ma nemmeno da scaltri ragionamenti di marketing. Avete presente i Police con le zazzere bionde? Beh, credete che sia stata una scelta della band, del loro manager, della casa discografica? Nah, è tutta colpa della pubblicità. Parliamo degli inizi dei Police, quando i dischi se li dovevano pagare con i propri soldi. Per la cronaca, la registrazione di Outlandos d'Amour, il primo album, costò circa 2.000 sterline, mentre Regatta de Blanc 9.000. Nel 1978, quando ancora erano alle prese coi nastri demo per il loro primo album, fino a quel momento i Police avevano inciso solo un singolo intitolato Fallout, la Wrigley's, che produceva gomme da masticare, contattò la loro agente Franz, moglie di Sting. I tre dovevano fare la parte di tre giovani punk in cambio dei soldi che avrebbero usato per produrre nuove canzoni. C'era però una clausola: i tre avrebbero dovuto avere i capelli biondi. «Ehi, sembriamo tre vecchie puttane, non tre giovani punk», esclamò Andy Summers quando si vide per la prima volta biondo allo specchio. Ma quel look, in qualche modo, funzionò. Finalmente riuscirono a scrivere un pezzo come Roxanne. La A&M se ne accorse e divennero una delle più importanti band dei primi anni Ottanta. Si sciolsero seppure mai ufficialmente dopo aver registrato Synchronicity nel 1983 e si sono riformate all'inizio di quest'anno per un tour milionario. Sting, Andy Summers e Stuart Copeland, dopo 30 anni, sono ancora biondi. «Blondes have more fun», cantava Rod Stewart. Ma qui con me ho Sting, sempre biondo, con Russians. Rush. Joe Malachi, I'm crumbling down. Lui è l'ultimo grande ospite di questo Hurley Bird Special. Eh sì, perché la trasmissione si conclude qui. A Chuck Bird non rimane far altro che ringraziarvi per l'ascolto e dare appuntamento a tutti voi passerottine e passerottine care domani mattina dalle 6 alle 7, sempre dalle frequenze di Rock FM. Vi lascio con Ariele e Freak Anthony e il loro pane, burro e rock and roll. Aloha!